Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sebastian Vettel ha iniziato l'ultimo giro, eccolo qua, silenzio, alziamo volume, saliamo in macchina. Ha iniziato l'ultimo giro. Il traguardo per Sebastian Vettel, signore e signori, tifosi della rossa, potete tornare a festeggiare, potete aprire di nuovo lo champagne, perché la Ferrari dopo 676 giorni torna a vincere in Formula 1 e lo fa con Sebastian Vettel. 222 vittorie per la Ferrari, 40 vittorie per Sebastian Vettel. Voi come la commentate? Voi tre? Wow, così dice Margenè. Io dico piedi a terra e testa bassa. Yes! Sì, ragazzi! Un giorno incredibile per me, per tutta la squadra e sono molto contento. Voi da casa come la commentate questa domenica rosso fuoco dopo il sabato azzurro sbiadito di Sofia? L'avete sentito? Ci siamo svegliati questa mattina con la vittoria di Vettel della Ferrari. 800 24 00 24. Domenica wow o domenica piedi in terra, Carlo? Beh, domenica in cui sognare, perché aprire lo champagne alle 10.56 del mattino non era una... Sì, non è salutare, eh? Un'impresa semplice. Fare merenda però, con lo champagne non è il massimo, però, lo diciamo, c'è a casa, va bene il cappuccino. Alle 10.56 del mattino, meglio il cappuccino, però... Però adesso c'è Dovizioso questa sera che parte in pole position e potrebbe essere davvero tutto rosso fuoco per farci dimenticare quello che abbiamo visto ieri sera. Sì. La mattina meravigliosa gara e una Ferrari sorprendente dal punto di vista del passo gara. Quattro podi sono il paradiso, avevano detto all'inizio stagione. Sì, però l'hai sentito, non arriva bene, sembra. Ha detto, avevamo detto, due podi, uno l'abbiamo fatto. Aspetta, fammi salutare Giorgio Teruzzi, ciao, che intanto ci ascolta. Eccoci qui, Giorgio, ciao. Buongiorno a voi. Wow, piedi a terra. Tutte e due. Tutti e due, un po' e un po'. Un po'. Come al solito, beh, wow, sì, oggi sì, dopo mesi di musi lunghi ci sta anche un wow, poi dopo piedi a terra... Tutti lì, Piedaterra è un luogo comune. Wow, oggi sì. Però professore, sul passo gara, dicevo prima, la Ferrari è sorprendente nel confronto diretto con la Mercedes, eh? Sì, devo dire che è una giornata in cui la Mercedes ha fatto un'infilata di errori. Di errori molto rilevanti. Però sì, è una macchina che va bene, era una verifica importante dopo una pista strana come quella australiana, forse servirà ancora un attimo. Ci sono stati alcuni, adesso l'analisi tecnica volendo non è così ottimistica, perché poi ci sono stati un po' di accadimenti da verificare. Certamente siamo in ballo, insomma è una macchina che... Sì, c'è dentro un po' tutto in questa gara di Sepang, c'è la macchina veloce, c'è una strategia coraggiosa, c'è il riscatto del muretto, perché poi era stato un sabato invece un po' così, e difatti Raikkonen ne arriva bene, non se le erano nemmeno mandate a dire. 800 24 00 24, noi siamo qui in diretta fino alle 19, lo dico agli amici da casa, poi avremo un'ampia pagina pagina su Antonio Conte, la nazionale, abbiamo anche qualche retroscena da raccontarvi, e quindi se vi volete prenotare già adesso, perché vogliamo sapere che cosa ne pensate di quella vicenda lì, magari anche di cosa ne pensate di questa, perché stamattina, dopo aver messo via il cappuccio e tutto, a me è venuto in mente e ho detto, ma allora aveva ragione Marchionne, allora erano Montezemolo, Domenicali, Mattiacci, quelli bolliti, adesso sono arrivati, arriva bene, Vettel, tutta una squadra nuova. Giovanni, è interessante chiedere a Giorgio Teruzzi quanto Conta arriva bene in questo avvio della Ferrari. Ma guardate ragazzi, io penso che il merito sia sempre di quelli che sono lì, però i nodi del destino sono straordinari, no? Cioè, dentro questa vittoria c'è Vettel, che è un ragazzo che ha avuto un approccio straordinario, ma ha fatto un patto col diavolo, secondo me, cioè è un ragazzo che sceglie il tempo, o a fortuna, non lo so, ma insomma ha dentro un, come dire, uno stato di grazia permanente. C'è una macchina che va bene, il problema è sempre quello, le armonie, i grandi manager sono sempre legati a un fatto tecnico in Formula 1. Paradossalmente questa macchina dentro, Nilton Basis, che è stato licenziato, è una macchina che ha fatto soprattutto lui, ha dentro un gruppo di lavoro che era lo stesso, che aveva forse bisogno di tempo, cioè, però adesso ci sono questi, cioè, c'è Marchionne, c'è, arriva bene, è giusto che si prendano i meriti, però ragazzi, la Formula 1 è un mondo strano. Ricciardo l'anno scorso sembrava l'ira di Dio, oggi ha preso un giro da Vettel. Newey, che è stato il tecnico che ha più rincorso la Ferrari, prende un giro oggi dalla Ferrari, cioè è molto difficile dare una valutazione di merito, perché è sempre la tecnica. Ci sono dei progettisti che beccano una macchina che funziona dopo quattro macchine sbagliate. È così, chi c'è, sì, adesso. In settimana abbiamo anche letto di investimenti per un centinaio di milioni di euro negli ultimi 12 mesi per cercare di mettere la Ferrari di nuovo in linea di galleggiamento Mercedes. Vi leggo qualche messaggio che è arrivato al 349 238 6666. C'è chi scrive: adesso non vi arrampicate sugli specchi per i disastrosi pronostici che avete fatto sulla rossa di Maranello insieme ai vostri illustri ospiti, non ma ci azzeccate loro, mai. Ma li hanno fatti loro, no, ce l'hanno con te, gli hanno fatte la Ferrari. Cioè, sono loro che hanno detto: ragazzi, niente illusioni, due podi è il nostro obiettivo, tre sarebbe straordinario, quattro il paradiso. Sì. Non l'ho mica detto io. Conviene non illudersi nemmeno adesso, giusto Giorgio? Sì, cioè, in questo senso è giusto dire piedi per terra. Cioè, questa Ferrari ha preso 30 secondi alla prima gara, ha vinto la seconda, vuol dire che dentro queste due, questa forbice enorme, ci sono una serie di fattori che vanno verificati. Certamente è una macchina che è vicina, che può vincere delle corse, sulle vittorie in questo caso secondo me hanno pesato un po' di fattori estranei alla qualità della Ferrari, però poteva arrivare seconda, la peggio arrivava terza, vicina alle Mercedes, vuol dire che il panorama è cambiato. Poi dipende che cosa sono le aspettative. Se pensiamo all'inizio del mondiale, dopo un anno come quello che è stato, con uno scarto come c'era, alla prima gara prendi 30 secondi con due macchine che gestiscono, perché in Australia la Mercedes ha gestito la corsa, allora dici, beh, non sarà facile, però eri già la seconda forza, già da st'inverno. Poi da adesso in avanti peseranno un po' di cose, cioè secondo me per esempio la Mercedes oggi sotto pressione, cosa che forse non era più abituata, non si trovava così, ha dimostrato tempo, di essere fallibile, ha fatto un sacco di maroni, cioè ci saranno molte cose da dire. Io sono il primo a dire, correrà sangue a Stoccarda dintorni, stai dicendo, nelle prossime due settimane, sangue in senso metaforico ovviamente, poi c'è anche chi dice ci vogliono i tedeschi per far andare forte gli italiani, c'è chi dice bellissima vittoria, dà fastidio pensare che sia targata a Marchionne. Salutiamo Massimo, vabbè, che evidentemente è un amante del puloverino, no? Ma insomma, non so, queste sono cose di simpatia o antipatia, non so dire. Certamente, per esempio, io sono dell'idea che tutti noi onestamente sbagliamo spesso a valutare, sbagliano i tecnici a dare le valutazioni, perché la stessa Ferrari aveva una valutazione diversa da quello che è stato poi l'andamento del campionato. Ci sta. Mi viene in mente, oggi ho guardato, devo dire, con un po' di tenerezza Alonso, che al contrario di Vettel ha fatto una scelta sbagliata. Sì, un po' sfigato in questi ultimi anni Alonso. Sì, consigliato male. È sempre forse il posto sbagliato nel momento sbagliato. Sì, però sto dicendo che adesso so che sono attaccabile, mi diranno che sono alonsiano, però sto dicendo che la gara di oggi, con la macchina di oggi, un buon pilota porta a casa un buon risultato, è sempre lì il problema, no? Però tocca a Vettel, che ha vinto 4 mondiali, adesso è lì ed è lui, pazienza. Grazie Giorgio. Ciao. Grazie Giorgio. Ciao. Grazie a Giorgio, ciao, Teruzzi, ciao. Ci sono anche Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleone in regia. Ci dovete essere soprattutto voi, 800 24 00 24, anche quelli che dicono arriva bene Marchionne, sono come il cambio in panchina di una squadra di calcio, adesso bisogna avere pazienza e aspettare. E noi parliamo anche di altre panchine, eh? Maurizio, ci racconti la tua emozione, abbiamo visto le mani tremare nello schiacciare il pulsante per raccontare e ringraziare tutti i tuoi ragazzi. No, a me non tremano le mani, tu sei sbagliata. Tutti convocati. Sì, poi c'è il miracolo, quello che non abbiamo avuto tempo di parlarne con il professor Teruzzi, però la Ferrari corre con due piloti, cosa che non accadeva da non so quanto tempo, altro che il podio, la pole position e la prima fila. Oggi abbiamo visto Kimi Raikkonen grandissima andare gara, come un pilota di Formula 1. Ma grandissima gara, ma Kimi Raikkonen è uno straordinario pilota, molto delicato e molto particolare, molto molto fragile, però oggi ha fatto una gara pazzesca Raikkonen, forse in valore assoluto superiore a quella di Vettel, che l'ha gestita con una maestria pazzesca. Vettel è ad un gran premio da Senna, 4 mondiali vinti, Alonso ne ha 22, per me, io sono d'accordo con Giorgio Teruzzi, rimane il pilota più forte del mondo, Alonso, e non so, mi viene da dire che fosse un po' un falso storico. Sono un po' un falso storico questi numeri di Vettel, che rimane uno straordinario pilota, forse è una cosa impopolare da dire oggi, però sono numeri che fanno impressione. Sì, però se lui riesce a metterci qualcosa di suo e anche in una possibile rinascita della Ferrari, la domanda si può anche porre. 800 24 00 24. Osvaldo d'Arezzo. Osvaldo, sì, buonasera, eccoci, prego. Allora, ho visto il Gran Premio. Sì. Mi sono emozionato perché Vettel mi ha ricordato quella vittoria con la Toro Rosso a Monza. Sì. E in più parlava sempre di Schumacher come di un maestro. Potrebbe, se le cose andassero nel modo giusto, essere il secondo Schumacher della Ferrari. Inoltre ho visto una macchina finalmente ben bilanciata, una macchina che utilizza al massimo le gomme, per cui la tenuta di strada, la guida pulita, per cui sono convinto che i numeri ci possono essere tanti, al di là di quello che avete detto su Marchionne o altro, perché magari avete ragione, arriva a cose in gran parte già fatte. Però dico, oggi fra Raikkonen, che è veramente un grande pilota, e Vettel messi insieme diventa una strada, potrebbero diventare di nuovo, sì, una Ferrari. A patto, ripeto, di non illudersi, perché come giustamente ricordavamo, poi 2 settimane fa a Melbourne la Mercedes aveva vinto in totale controllo il primo Gran Premio della 30, stagione 30 secondi, e quindi probabilmente i rapporti di forza sono ancora quelli. Marco da Terni, Marco. Sì, buonasera. Eccoci. Veramente volevo intervenire su Conte. Quello che vuoi. Siccome sono, prego, un ferrarista appassionato, devo dire che sono veramente felice che questo nuovo pilota ci abbia dato una vittoria dopo veramente troppo tempo. 676 giorni per la precisione. Sì, esatto. Sono sempre convinto che, come per le squadre di calcio, anche per la scuderia Ferrari ci sia un problema di denaro, e che quindi non era facile tirar su qualche buon risultato, perché probabilmente mancava quel background di soldi che altre squadre hanno. Sì, non che fino all'anno scorso la Ferrari spendesse poco, no. Vero è è stato ricostruito anche questa settimana che comunque ne sono stati buttati tanti per cercare di fare quel salto di qualità. Intanto questa domenica, che può essere la domenica delle rosse fiammanti, c'è anche in warm up il secondo posto di Valentino Rossi, sì. Gran Premio del Qatar che vedremo questa sera a partire dalle 20 col Dovizioso in pole position. Io non so, anche Marco da Terni, Carlo, se anche voi a casa, se siete d'accordo sulla definizione che da un amico via SMS a proposito di cambi di panchina ad Antonio Conte, che è l'altro grande personaggio di questa domenica, e lo chiama permalosone. Ha ragione Marco. Conte, allora io direi che ha vinto due campionati quando non aveva concorrenza. E poi direi che se fosse veramente un grande allenatore, cosa che io non credo, squadre importanti lo avrebbero cercato. Ma non mi risulta che, non so, il Chelsea o il Barcellona o il Real o qualcun altro. Sì, mi sembra però, Marco, una provocazione dire che Conte non sia un grande allenatore, forse con un profilo internazionale. Però poi gli scudetti vanno vinti anche quelli senza, senza concorrenza, no? Non è che non ci fosse concorrenza, però no, attenzione, non è che non ci fosse concorrenza, perché il primo scudetto di Conte è stato vinto contro un Milan che aveva tutti i favori del pronostico e che era ancora il Milan di Ibrahimovic, Thiago Silva, eccetera eccetera. La Roma l'anno scorso era qualcosa di serio, molto di più di quest'anno. È vero che Conte non ha un profilo internazionale perché è così, perché questa è la realtà. E comunque partiva sempre da quei settimi posti, per cui non bisogna nemmeno dimenticare da dove partiva. Grazie Marco. Ciao Marco. Conte che ieri sera ha detto: peccato, abbiamo fatto la partita, dovevamo raccogliere di più. Oggi i giornali in realtà hanno un'opinione diversa sull'Italia vista a Sofia in Bulgaria, un'Italia che ha fatto un passo avanti in classifica e almeno un passo indietro sul piano del gioco. Cross teso, l'uscita non riesce, arriva Zaza, il vantaggio dell'Italia, 1-0 per gli azzurri. Si gira bene Popov e il pallone è in rete, gran gol di Popov, 1-1, ha segnato la Bulgaria. Pippero. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Il colpo di testa di Mizanski e trova il secondo gol alla Bulgaria. Popolo bulgaro, popolo italiano, servizi segreti bulgari e italiani, via. Sentite come pompa il pippero. Si gira Eder, prova e la conclusione. Eccolo! Un gran gol. Il gol all'esordio Ha segnato Eder con un gran destro, imprendibile, sul secondo palo per Mikhailov. Unite le falangi. E oggi sono molto felice di nella prima partita mia aver fatto un gol con una maglia di una nazionale così importante come l'Italia. Pippero. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. A me la squadra è piaciuta oggi sotto tutti i punti di vista, quindi ripeto, su un campo difficile storicamente, abbiamo giocato una porta, abbiamo lasciato due ripartenze e si è stati puniti, poi per il resto abbiamo fatto la partita a lungo e largo, abbiamo avuto diverse occasioni di fare gol, ripeto, abbiamo raccolto il minimo, però sono soddisfatto. Ora è il momento di cantare a squarciagola. Ramaya, ramaya, ramaya, ramaya. Scherziamo, poi è anche vero che noi in Bulgaria non abbiamo mai vinto, come ricordato ampiamente anche ieri sera, però secondo me la sintesi migliore è di chi ha detto: ma come si fa a prendere due gol così, a non vincere contro una squadra che era numero 71 del ranking FIFA, sì, per quello però, che conta. Scusa, però Giovanni, tu vai, se qualcuno ha la vista un po' più ampia e va a leggersi la situazione dei vari raggruppamenti europei, vede che l'Olanda ad esempio ha 7 punti dietro i 13 della Repubblica Ceca e i 12 dell'Islanda. Sì, non siamo solo noi che stiamo soffrendo. Il Belgio è terzo, la Spagna è dietro la Slovacchia, la Germania è attualmente quarta in classifica dietro Polonia, Irlanda e Scozia. insomma, va tutto preso. Sì, però l'indicazione, credo, Salis, anche, no? Leggendo la formazione di ieri, è che non possiamo fare a meno dei vari Pirlo, De Rossi, Montolivo, Pepito Rossi, forse farlo. Anche Balotelli, visto Immobile, Zaza di ieri. Ma però cioè, c'è una certa carenza di qualità. Beh, ma sicuro. Cioè, vai a leggere lo score degli attaccanti che ha a disposizione in questo momento l'Italia e ti rendi conto che sono attaccati da pochissimi gol e dalla scarsissima esperienza internazionale. Quindi io sono assolutamente dell'idea che bisogna aprire a tutti i giocatori funzionali, oriundi o no. Se hanno i documenti in regola, sono convocati, convocabili, e devono essere chiamati, ed Air dimostra. Sì, oggi ho visto le prime pagine, un brasiliano salva l'Italia. Vabbè, un brasiliano, mezza Italia, non ha rubato i documenti Italia, in questura, che non è solo, sì, non tiriamo fuori chi ruba i documenti. Ma non ha rubato i documenti in questura, ed era elegibile per la nazionale. Non vedo perché, se è funzionale non devi poterlo chiamare come fanno molti altri. Cioè, il calcio è questo. Verratti bocciato da Vice Pirlo. Ma non è il suo ruolo. No, allora bisogna cominciare ad allontanarci dall'idea dell'essenzialità di giocatori come Buffon, Pirlo e quelli che dicevi tu prima, tutti i vari senatori che hanno ormai 35-36 anni. Verratti è il futuro di questa nazionale, ieri sera bocciato, la prossima volta non sarà così. È un giocatore di talento, di personalità, che deve essere il centro di questa nazionale per quanto riguarda il centrocampo. Resta che fra 15 mesi c'è l'europeo, capire come arrivarci da competitivi è complicato. Ieri l'hanno chiesto a Chiellini, ti faccio sentire la risposta. Parlavi, ciao, non siamo ancora al top, manca un anno e tre mesi alla fase finale dell'europeo. C'è il tempo a sufficienza perché si raggiunga questo top in vista della fase finale? C'è il tempo, ma per fare questi passi da gigante e bruciare le tappe abbiamo bisogno, come ho detto prima, secondo me, di positività e entusiasmo anche dall'ambiente, perché questa squadra è giovane e penso che l'emblema possano essere le due punte. Con l'entusiasmo si scatenano, fanno, insomma, si esaltano, e questa squadra ha proprio bisogno di quell'entusiasmo che si è percepito nel primo mese, e non è un caso, secondo me, che poi sono venute le migliori prestazioni. Questo Chiellini, mio parere, è difficile vedere la luce in fondo al tunnel. Non è solo una questione psicologica, di entusiasmo. Poi, per carità, c'erano tutti gli alibi in questi due giorni, e dopo le 17:30 ne parliamo e vediamo anche il retroscena dello scontro tra Conte e la Federcalcio. Forza Sampdoria! Anche il presidente ha brindato questa mattina, ha fatto sì, alle 10:56 ha aperto lo champagne. Campa nazionale! Sì, ha torto, poi anche Soriano è entrato e ha pareggiato, poi c'era anche Gabbiadini. Sinistra sì. Mialovic mi ha detto una bella cosa e dice: hai visto che gli oriundi alla nazionale non servono? Quante carucce! Si è preso una bella rivincita, insomma, hai visto che ha fatto anche il tweet il presidente Ferrero questa mattina. Mancini, cos'è che aveva detto Mancini? Che non dovevano andare in nazionale. Bravo. Io la spiegavo dall'inizio, il carcere da vita è gioia, allegria, e io sono distintivo. Sì. Allora, Capuano, gente, fatemi cantare. Cantare possiamo anche fare a meno. Ma Bruno Conti al Festival di Sanremo. Carlo Conti. Comunque, questo è un programma di sport. Non mi ha fatto cantare. Sì. E fatemi cantare. Roberto Rossi mi ha scritto apposta questa bella canzone. Chi è Roberto Rossi? Intitolata Doria. Umberto Tozzi. Comunque è Gloria, non è Doria. E io l'ho detto. Però possiamo anche fare a meno della canzone. Senti qua quanto è caruccia. Ma no. È bellissima, sì. Senti un po'. Sentiamo. Doria, manchi tu nell'aria. Manchi commerciale. E a Mancini erode. Ma. Questo riundo che esplode. E te segna il nazionale. A Mancini butta male, per noi segna Eder l'ha presa in maniera un po' più sportiva, ieri sera ha detto ma non interessa, ho sentito, mo ve canto un'altra strofa, però basta, grazie, una bella strofetta, forza Samp, sì, arrivederci presidente, 800 24 00 24 Andro Mercu, arriviamo subito. convocati. C'è chi ci invita a chiamare Leo Turrini domani. Lo convochiamo domani Leo Turrini per parlare di Raikkonen, soprattutto più che di Vettel. Poi a proposito di Formula 1, c'è chi dice oggi la Mercedes non ha sbagliato, ma erano obbligati perché aveva una macchina mangiagomme. No, ha sbagliato, ha fatto la un pit stop in più. Sbagliano anche i tedeschi, possiamo dirlo. Sbagliano anche i tedeschi. 800 24 00 24. Ha tolto a Rosberg la possibilità di vincere oggi. Sì, Paolo da Monza Brianza. Paolo, buon pomeriggio a tutti. Eccoci, però se hai il viva voce toglilo, perché sennò diventa un po' complicato. Ecco, bravo. Eccoci qua. Adesso ti sentiamo. Ci siamo, sì, prego. Sì. Ciao a tutti. Ciao a te. Allora, segue una considerazione che facevate domenica scorsa, penso soprattutto Capuano. Sì. Juventus e Champions League. In realtà il problema dell'Italia, secondo me, non è Conte, non è aspettare il ritorno di Montolivo, De Rossi, questa gente qui, ma sono i tre dietro, che presero un gol dal Costa Rica, presero un gol dall'Uruguay, e meno male che contro il Monaco giochiamo forse con Ebraico e quattro dietro, perché la vedo grigia. Sì, ieri sera non benissimo la difesa italiana, soprattutto nel primo tempo. Però io aspetterei a gettare la croce su un reparto che comunque, completato anche da Buffon, anche se ieri Sirigu ha fatto assolutamente il suo, continua a dare delle garanzie. Il problema forse è che la nazionale oggi è monomodulo, cioè è 3-5-2 e lì non ci si muove. Sì, non so quante difese migliori ci siano in giro per non l'Europa, quella della Bulgaria, non quella della Bulgaria, rispetto a quella dell'Italia. Monomodulo, perché Conte lavora monomodulo, perché Conte gioca in questa maniera qua. E il problema dell'Italia, secondo me, io continuo a ripeterlo, va dalla cintola in su. Sì, però diciamo che si è un po' allargato Bonucci questa settimana, che ha detto questo è il reparto più forte del mondo. Non so se è il reparto più forte. Si è un po' allargato. Forse si è un po' allargato, però onestamente non so quanti pacchetti difensivi ci siano migliori rispetto a quello dell'Italia. Cioè non vedo un grande problema dietro. Io sinceramente. A proposito di difesa oggi, Criscito. Ti ricordi Criscito? Sì, quello che non è Cabrini. Quello che non è Cabrini, ma non è probabilmente neanche Abate e Santon, che si sono aggregati oggi alla nazionale in vista della partita di martedì sera contro l'Inghilterra. Tweet di Domenico Criscito questa mattina, intorno a mezzogiorno, punto di domanda ripetuto per 8, e poi scrive punti di domanda che mi pongo da tantissimo tempo. Poi ha scritto anche, ma non era una polemica calcistica, però magari Criscito potrebbe servire a questa nazionale. Mi fate sentire cosa ha detto Caressa a proposito di Mimmo Criscito, che è sparito dai radar della nazionale da quella famosa perquisizione a Coverciano in tempi di calci scommesse. In Italia c'è della gente che deve andare in galera e non va in galera, e poi c'è della gente che viene trattata in una maniera vergognosa perché tendenzialmente c'è bisogno di pubblicità, e queste sono cose inaccettabili. Criscito è stato trattato in una maniera inaccettabile, vergognosa, e va risarcito, e secondo me Criscito andrebbe convocato anche solo per risarcimento. In più, Criscito noi non lo seguiamo tantissimo, ma comunque non può aver fatto la stagione peggio di Abate. Secondo me Criscito va chiamato se è un giocatore che serve a Conte, esatto. E non per risarcire nulla. Convocazioni risarcitorie mi convincono pochissimo. No, ci mancherebbe. Massimo Cecchini, collega della Gazzetta dello Sport, cosa ne pensi? Ciao Massimo. Risarcimento o no? Secondo me è sbagliato pensare che la nazionale debba essere una sorta di risarcimento ex post, perché se no non si va lontano. Criscito ovviamente è stato vittima forse più di altri di una determinata situazione, però dobbiamo renderci conto del contesto. Però è anche vero, Massimo, che è anche vero che quelli che vanno a giocare da un'altra parte vengono, mi viene voglia di dire, discriminati, forse non è la parola giusta, però guardati con un occhio diverso. Continuiamo a perderli di vista un po'. Sì. Un pochino sì, ma anche perché noi abbiamo ben chiaro il quadro di valori, il metro dei valori tecnici del nostro campionato. In effetti spesso non accade lo stesso sul campionato russo. Se volete vi faccio un esempio specifico. Noi in Italia abbiamo preso alla Roma un calciatore come Dumbia, che è stato uno delle stelle del campionato russo, arrivato in Italia sembra un ex giocatore. Allora qualche volta viene il dubbio che noi, che siamo brutti, sporchi e cattivi, però affrontiamo delle difficoltà tecnico-tattiche a ogni partita che non sempre in altri campionati si respirano. Detto questo, non voglio dire che Criscito non debba più essere convocato in nazionale, però voi immaginate com'è la politica, adesso va di moda molto 1992, avete visto, no? Sì. La serie di Sky. Qual era il clima politico, il rapporto con il politico di turno più o meno potente nel 92 rispetto soltanto a ai 3 anni successivi o adesso? Cose sembrano cambiate, non verrebbe mai nessuno in mente. Sapete che facciamo? Facciamo onorevole, mettiamo in lista una persona a modo di risarcimento per una situazione. Ma credo che fosse una provocazione, insomma, cioè l'idea però che se abbiamo una nazionale, Massimo, che ha onestamente dei problemi di qualità, magari anche Criscito può venire utile. Però vogliamo parlare di quell'altra cosa che è stato il grande tema delle ultime 48 ore, oggi un po' sotto traccia, ma sono sicuro da domani se ne tornerà a parlare, e cioè di quello che gli amici da casa definiscono il permalosone. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciante è quello che dicono, e agghiacciante che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? E agghiacciante è che un conte tecnico tattico non possa vincere una partita col Catania senza che tutti sospettino che c'è qualcosa sotto. E agghiacciante, chapeau. In che modo un giocatore come Marchisio può essere sostituito? Gioca Bertolaccio al posto suo, non cambia niente, cambia l'interprete in campo. Sicuramente è una grave perdita Marchisio, ma Bertolaccio è un ragazzo giovane, farà bene. Ma per lei è una perdita più importante per la nazionale o per la Juventus Marchisio? No, vabbè. Per quanto riguarda Conte, io gli sono stato vicino ieri sera con il comunicato, questa mattina sono stato un bel po' di tempo con lui. Se devo dire che è sereno, non è sereno, e questo non ci fa piacere. L'unica cosa che chiedo è che di essere lasciato in pace a lavorare, ecco. Sono stato chiamato in nazionale per lavorare e mi si lasci lavorare, ecco, in maniera serena. Poi saranno i risultati, positivi, meno positivi, ecco. Però non subito le affermazioni, ecco, quello non scivola. Poi io sono uno che ha la memoria d'elefante. E poi oggi, ore 16, Massimo Cecchini, Gazzetta dello Sport da Torino, twitta una foto e scrive: questa è la folla fuori dall'albergo della nazionale, Massimo, e Conte è uscito a prendere un caffè. Sì, ci interessa, perché segna anche il termometro, no? Sì, diciamo che ha marcato il territorio, se vogliamo usare un'espressione etologica. A Torino è stata soltanto una passerella positiva per lui, applausi, incoraggiamenti. È uscito a prendere il caffè intorno alle 14, ma alle 17 o poco prima delle 17, quando la nazionale è uscita per andare all'allenamento, sono stati solo applausi, cori per tutti, quindi Torino in questo momento, il cuore della Torino bene, sta rispondendo nel modo migliore alla nazionale, e quindi tutto lascia pensare che martedì non ci debba essere, insomma, questa sorta di strappo sentimentale, questo conflitto edipico fra la mamma bianconera, che è stata, il figlio Conte che l'ha abbandonato. Conflitto edipico è una definizione meravigliosa, è una questione di uomini e di caratteri, neanche di politica sportiva, di stage, di tattica, per cui i problemi sono ai piani più alti, forse, neanche la Torino bene, ma la Torino benissimo. Massimo, abbiamo un minuto di traffico, perché poi invece raccontiamo qualche retroscena di queste ultime 48 ore di Conte la nazionale. Traffico. Ah, ciao, sono Lapo Elkan. Il medico della nazionale ha diagnosticato a Marchisio una lesione subtotale del crociato. Il medico della Juventus ha diagnosticato a mio fratello John Rocky Rambo Elkan l'orchite. convocati. Io voglio dirlo subito, questo è il mio parere, Antonio Conte ha il suo carattere, ma sulla gestione delle ultime 48 ore ha perfettamente ragione. Cioè quello che è successo, quel cortocircuito con la Juventus dopo l'infortunio vero presunto di Marchisio, è qualcosa che è andato assolutamente sopra le righe. Voglio sapere cosa ne pensate, 800 24 00 24. Massimo Cecchini, davvero è stato vicino a dire addio alla nazionale? Davvero è stato arrabbiatissimo e ha pensato che la nazionale non fosse il posto adatto a lui. Disgustato, sì, mi è stato descritto. Sì, devo dire che il personaggio è quello che è, avete rimandato lo stralcio dell'intervista Rai, è di una permalosità, devo dire francamente, esagerata, perché... Sì, però Massimo, scusami, però io sono a me dà un po' fastidio, mi dà un po' fastidio vedere comunque Antonio Conte, CT della nazionale, va bene, non stiamo parlando di un bravissimo allenatore, di un commissario tecnico che guadagna un mucchio di soldi, non stiamo parlando di Gesù sulla terra, voglio dire, è un allenatore, mi dà molto fastidio vedere ogni volta se ne va e se ne vuole andare e viene per farti un piacere e forse però la prossima volta va via. Cioè, sinceramente questa storia qui a me dà fastidio, non lo so a te, agli ascoltatori o a chi altro, a me dà fastidio questa storia. Cioè, vengo per fare un piacere, a 4,5 l'anno vengo, però non so se mi piace, non so se è il mio ambiente, se non mi date gli stage, e però forse mi sono rotti i coglioni. Ma dà fastidio sta roba qua, ma dà fastidio. No? Che dia fastidio non c'è dubbio, se voi pensate che solo 3 giorni fa la federazione ha rinnovato un congruo contratto con la Rai per circa 60 milioni di euro che comprendeva anche pacchetti. Sì, ha bisogno della babysitter, no, non ho capito. Però voglio dire, quello che è successo nelle ore dopo l'infortunio di Marchisio, ma sì, ma va bene, ma se succede a tutti i commissari tecnici, cioè, allora, voglio dire. Io voglio usare Massimo Cecchini, che è inviato sulla nazionale e conosce anche i retroscena, le pieghe, cioè, ad esempio questa cosa che in nazionale ci si fa sempre doppia seduta, a me risulta anche nell'ultima settimana non essere vera. Sempre doppia seduta? Assolutamente no, ma non è vero. Ma è una delle cose che ad esempio mi dicono abbia fatto arrabbiare Conte, cioè che da Torino sia arrivata questa... Questa è una sciocchezza. Abbia soffiato questo venticello, no? Ragazzi, cioè, ma voi se sapete, magari basta che uno dica una cosa, tutto viene gonfiato, ma vi immaginate per giocatori soprattutto che stanno arrivando alla fine della stagione, se ogni giorno in nazionale si può fare la doppia seduta, è come se nei club tutti i giorni facessero doppia seduta, è fuori dal mondo, no? Certi giorni si fa doppia seduta, certi giorni no, quindi assolutamente da questo punto di vista Conte ha perfettamente ragione, però la su nazionale sì. Questa e diciamo pure che paga una sorta di contrappasso, non dimentichiamo che quando Cesare Prandelli, adesso ormai precipitato nell'oblio di tutti coloro che non sono vincenti, faceva le sue convocazioni, faceva le sue scelte, e da quel punto di vista era Antonio Conte che seduto sulla panchina della Juve si lamentava della nazionale. Adesso visto che la vita qualche volta è una ruota, si ritrova ad essere nella stessa posizione, solo che Prandelli era un po' più un San Sebastiano trafitto dalle frecce senza troppo mormorare. Ma forse in questo caso c'è anche la parte personale. Venerdì sera si è fatto male Lichtsteiner, poi fortunatamente non è nulla. Si è fatto male Lichtsteiner nella partita della nazionale della Svizzera, non mi risulta che sia successo nulla. Ma poi raccontiamo. Hanno scoperto un nervo che gli addetti ai lavori conoscevano, ma è esplosa in tutta la sua virulenza la questione personale tra Conte e un pezzo della Juventus. Ma sì, è esplosa in modo totale. Ma poi riveliamo un segreto: se pensiamo che una squadra che ha forti giocatori, i giocatori forti possono andare in nazionale, qualsiasi sia la nazionalità a cui appartengono, mi sembra una tautologia, una ovvietà. Cioè, se un giocatore è forte è molto probabile che vada a finire in nazionale, e quando ci sono gli impegni ufficiali quelli che giocano in nazionale ci vanno. Ma questa ragazzi è una mania solo italiana, spessissimo gli stranieri, segnatamente i sudamericani, se provate a non farli andare in nazionale si incavolano in modo feroce, certo. Vengono a nazionale forse più che a club, ma poi conviene anche a club, no? Cioè è una valorizzazione del giocatore, una vetrina internazionale, è qualcosa che da sempre storicamente conviene anche al club. Io voglio avere i miei giocatori che vanno in nazionale e che quindi valgono di più, contano di più, no? Se poi vogliamo riformare il sistema come sarebbe buono e giusto, e non fare un calendario così affollato, non avere un calendario, una serie A 20 squadre ma magari a 18, giocare qualche partita in meno, magari sarebbe meglio, ma invece vogliamo la botte piena, la moglie ubriaca, i diritti TV in un certo modo, il calendario, cioè, arriveremo forse nel 2017, forse, vediamo. Tu oggi scrivi: c'è un muro attorno a Conte, chissà se basterà. Io penso che in questo momento in federazione si siano pentiti di aver spinto per giocare a Torino l'amichevole con l'Inghilterra, perché anche l'aspetto ambientale comunque conterà nelle prossime 48 ore. Ti chiedo solo 30 secondi, Massimo, perché tu scrivi anche: attenzione agli ostacoli improvvisi, ad esempio il possibile rinvio a giudizio a Cremona di Conte. Cioè, potrebbe cambiare qualcosa? Se resta in nazionale non credo proprio che cambi nulla, cioè in qualche modo la nazionale è una sorta di sinecura che il rinvio a giudizio, voi sapete i tempi della giustizia italiana, sì. Se arriverà potrebbe arrivare o appena prima o subito dopo l'estate, poi c'è il rinvio a giudizio, quindi tutto Conte farà ampiamente in tempo da rifare alla fine del suo mandato nel 2016 prima di arrivare a un giudizio. Se poi, e poi c'è sempre a prescrizione etiche, questo lasciamo gli ascoltatori giudicare, sì. Perché l'altro giorno il PM da questo punto di vista aveva fatto dell'amaro sarcasmo dicendo: ma mi sembra normale che un allenatore che poi diventerà CT della nazionale mandi a un ultra al Daspo la sua solidarietà, è una cosa normale. Sì, e parliamo delle vicende di Bergamo. Tranquilli, perché c'è sua maestà prescrizione, che tanto poi ci pensa lei. Avviso gli amici da casa che non abbiamo mollato il tema di venerdì, abbiamo fatto la nostra grande inchiesta e vi diremo se era rigore Giuliano Ronaldo e se il campionato del 98 è stato falsato. Fammi salutare Massimo Cecchini. Ciao Massimo. Grazie. Se ti interessa, intorno alle 18:30, campionato 98 Giuliano Ronaldo. Aldo. C'è dubbio sul rigore. E noi ne parliamo ancora. E noi avevamo fatto una promessa agli amici da casa. Grazie Massimo Cecchini. Ciao Massimo. Grazie Massimo Cecchini, inviato della Gazzetta dello Sport. 30 secondi ce li abbiamo per fare Mimmo da Napoli, che ringrazio per la lunga attesa. Mimmo. Vi ringrazio a voi. Prego. Buon pomeriggio. Volevo sottolineare che non solo c'è sudditanza, con la cosiddetta sudditanza degli arbitri verso le grosse società, ma addirittura sudditanza mediatica. Se dire Massimo Cecchini che l'etica e la morale non c'entra più col calcio fa venire i brividi. No, l'ha detto, dire la verità, il giudice nella vicenda di Bergamo, allora, non Massimo Cecchini, per correttezza, insomma. L'ha detto il giudice, Mimmo. Magari lo riprendiamo dopo il GR? Sì, dai, 800 24 00 24. Andiamo avanti dopo il GR. Siete con Conte o con la Juventus? Mancio, ti è venuto il broncio, la tua rabbia sale e te fa un po' male. Te piace pure Soriano, ma noi no, non te lo damo. E se Conte se ne va, il mio sinistro è qua. Oh, avete visto come sono caruccio quando canto? Ragazzi, ci sono fra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24. Se becchiamo fra poco, si ricomincia. Tutti convocati. Snyder a spazio. Snyder, deviazione. L'Olanda pareggia. Al limite arriva Brozovic, il piazzato. Croazia 1, Norvegia 0. La firma è dell'interista Marcelo Brozovic. Ramsey pettina il pallone, poi Bale, 3-0 Galles, ancora lui, Gareth Bale. Con Hazard, prova a incrociare, palo rete, 4-0, anche Hazard partecipa alla festa. Dibattito aperto tra gli ascoltatori, con Conte o con la Juventus. C'è un amico che ha scritto: Giacomo, sono uno juventino e martedì sarò allo stadium per ringraziare il capitano. ma c'è anche chi dice: io sto con Carlo Genta, non se ne può più di Conte il permaloso. Io vi invito fino alle 19 800 24 0024, quindi noi siamo qui per raccogliere il vostro parere. Tanto ha segnato l'Armenia, perché non ci siamo solo noi impegnati nelle qualificazioni, c'è in campo anche la Germania, 0-0. Anna Billò, la signora dell'Europeo su Sky. Ciao, Anna. Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Non ci siamo solo noi, ma neanche a soffrire. Abbiamo visto l'Olanda, l'abbiamo sentito, che si è salvata al 92esimo con gol metà di Snyder e metà di Huntelaar. Sì. Sì, infatti, non, diciamo che sono tante le grandi che stanno soffrendo. Com'è questo fatto che soffrono tutti? Ma io mi rifaccio un po' quello che mi dicono gli esperti, quindi Costa Curta, Dani, Ambrosini. Loro dicono che le grandi hanno preso un po' sotto gamba queste qualificazioni, pensando che tanto, visto che le prime due qualificate si vanno direttamente in Francia, si qualificano, poi va la miglior terza e poi ci sono quattro spareggi per le altre terze. Loro dicono, visto che è così allargata, ma possiamo anche cominciare ad agio. Sì. Però qualche nazionale grande, vedi l'Olanda, sta soffrendo più del dovuto. Sì, l'Olanda che era mezza fuori ieri sera, se non era mezza fuori, ma poi vedi il peggio dietro Israele, vedi la Spagna che comunque è dietro la Slovacchia di tre punti, vedi la Germania che comunque è quarta, è quarta in classifica di questa giornata. C'è anche la Russia, adesso recupererà quasi certamente i tre punti in Montenegro, però è, al momento è fuori dalle prime due ed è ai playoff. Secondo me, al di là della considerazione che vanno un po' tutti a questo europeo e quindi alla fine vedrete che ci saranno un po' tutti, c'è anche che è sempre complicato gestire la gestione post mondiale, e la Germania, sì, Anna, lo sta dimostrando. Lo sta dimostrando, l'abbiamo visto anche in amichevole contro l'Australia, ha fatto fatica, poi secondo me, visto che noi ci ricordiamo i nostri assenti, però Schweinsteiger per la Germania non è un giocatore qualsiasi, questa sera torna ed è tornato dal primo minuto, ma io credo che, pensando anche alle AD che ci sono stati dopo il mondiale, vedi Lahm, la Germania non può fare a meno di Schweinsteiger. Ma da quello che stiamo vedendo, c'è una nazione guida provando a buttare lo sguardo fino all'Europeo del 2016? Noi siamo un po' pessimisti sull'Italia, cioè 15 mesi non sono sufficienti per restituirci, credo, la patente di competitività. Però ho l'impressione che i valori siano un po' livellati in questo momento. Sì, anche se mi ha sorpreso in Inghilterra scoppiettante da subito, proprio pensando a come è andata ai mondiali. Quindi l'Inghilterra è la sorpresa più grande, e penso anche a Kane, che abbiamo visto subito in gol pochi minuti dopo che è entrato. Inghilterra che poi giocherà anche con l'Italia, anche se avrà tanti infortunati. Mi è piaciuta comunque la Francia, nonostante l'ultima sconfitta con il Brasile, ma Deschamps sta provando tanti giocatori, è cambiando moduli, quindi sta facendo davvero gli esperimenti. Boh, sono curiosa. E poi a me piace molto il Belgio, ma questo credo a tanti. Sì, squadra piena di talento. Sì, sì, sì. Tra l'altro ha anche l'età per esplodere giusto tra un annetto. Sì, sì. E ha l'imbarazzo della scelta davvero, perché basta leggere la panchina, basta vedere i giocatori che sono entrati anche ieri, e con un giocatore che guida come Hazard direi che il Belgio può essere davvero la sorpresa in positivo. Credo, Anna, che una buona parte della panchina del Belgio di ieri sarebbe stata titolare nella nazionale italiana. Purtroppo in questo momento facilmente. Sì, poi sai, alla fine lì non hanno grandi problemi, se sono bravi li buttano dentro, li fanno giocare, hanno una generazione di giocatori di grande talento. Da noi invece c'è la lista d'attesa come al supermercato, prendi il bigliettino e ti siedi. Questo è stato un argomento abbastanza spinoso anche di ieri con Ciro Ferrara e Alessandro Costa Curta. Diciamo che all'estero sono più abituati anche a rischiare, invece da noi si parla sempre molto di rischio di bruciare un giocatore giovane e non di rischiare di metterlo in campo. Però questa mentalità adesso deve cambiare, secondo me proprio non c'è un'altra possibilità, non ci sono altre soluzioni. Caranna, mi tengo il mio pessimismo. No, cosmico. Dai, no, cerchiamo di pensare positivo. No, però poi ieri abbiamo visto Verratti, dice Pirlo, probabilmente fuori ruolo, però sinceramente qualche dubbio ti viene. Ci si aspettava qualcosa in più. Decisamente. Sì. Sì, ed è strano comunque, perché lui non è un giocatore che sente le emozioni, è sempre piuttosto leggero mentalmente, però ha bisogno anche di trovare degli automatismi con dei nuovi compagni, non lo so, io voglio pensare che sia stato soltanto un caso. voglio essere positiva fino alla fine. Sì, soltanto un caso, perché se questo è il miglior talento italiano insieme all'altro che sta a Liverpool a cercare di capire cosa farà da grande, qualche problemino ce l'abbiamo, ma non soltanto in vista dell'europeo, dove più o meno poi arriverà la generazione dei nonnetti, quella di Barzagli, Buffon, Pirlo, De Rossi, sì. Quelli lì che poi non sì, so se arriveranno fino al 2018. Però io non sono d'accordo nel fare il parallelo Verratti Balotelli. No, però questi sono i due nostri talenti intorno ai 25. Verratti sta facendo benissimo. Sì, però Verratti sta facendo benissimo con il Paris Saint-Germain. Non è neanche paragonabile. Balotelli deve lui forse ritrovare la sua strada, ma è un altro discorso. Invece secondo me Verratti più un inserimento nell'Italia, perché quello che fa vedere anche in Champions League. Verratti sta andando benissimo, è la sua migliore stagione, è maturato molto. Invece per Balotelli credo ci sia stato proprio un cammino al contrario. Sì. Sperava di trovare altri stimoli a Liverpool, invece non stanno arrivando. Però adesso Balotelli se la deve vedere con se stesso, invece secondo me Verratti deve solo avere più occasioni. Verratti se la deve vedere con Conte, che non credo sia rimasto contentissimo. Io ho visto l'intervista dopo partita, gli hanno detto beh, Verratti ti aspettavi di più. Risposta con la faccia un po' così, un po' la Conte, un po' permaloso, ha detto Verratti è uno dei 14 che ha giocato questa sera, che non è un buon viatico, Verratti deve per uno essere, che aveva i riflettori puntati Verratti addosso. Verratti gioca lui più altri 10, questa sì, è la risposta. Poi c'è chi dice se facessimo due under 24 italiani sempre in campo in campionato, ma no, si potrebbe, basterebbe uno, basterebbe uno. Grazie Danna Billon. Bene, grazie a voi. Che abbiamo strappato gli studi di Sky, dove è già iniziata la maratona delle partite delle qualificazioni europee di oggi. 800 24 00 24, il 90% degli juventini da stadio sono con Conte, alla faccia del viziato Elkan. Giacomo da Bergamo, hai capito? Ma non si tratta di essere pro contro Conte. Io continuo a pensare che io sono pro Conte in questa vicenda. Assolutamente pro Conte. Ma questa vicenda è abbastanza pelosa e inutile. Questa vicenda è chiara. Sì, chiara, secondo me. Ma sono sciocchezze quelli sono sciocchezze quando si dice per gli allenamenti di Conte, questo è pretestuoso. A me dà solo fastidio il fatto che questo sia lì a dire no, resto, vado, ma forse sono vilipeso, offeso, eccetera. Vediamo se me la sento di venire in panchina. Traffico, questo dà fastidio. Traffico. Un saluto agli amici di tutti i convocati weekend da Fabio Capello. Sono denutrito, sto facendo la fame perché la Federazione Russa non mi paga. Invito tutti voi a lasciare beni di primo consumo a Radio 24, roba tipo caviale, ostriche, champagne, che sono molto buoni da un punto di vista tecnico-tattico. Convocati. Ma il premio della domenica va all'amico che scrive, purtroppo non si firma e quindi non possiamo celebrarlo in maniera degna, e scrive: Conte non ha colpe, l'Italia ha pareggiato per colpa dei giornalisti, perché invece di pensare alla partita con la Bulgaria pensano al caso Marchisio e fanno il male dell'Italia. Sono numero uno. Sono d'accordo. Abbiamo recuperato Mimmo da Napoli. Mimmo, eccoci. Lasciamo stare l'etica e andiamo a Conte. No, ma per l'amor del cielo, però sentire in un centrocampo dove Candreva assente, Bertolacci quasi presente il secondo tempo, e dire che Verratti si piglia la croce addosso è proprio il massimo, vuol dire che ne posso parlare anch'io di calcio. Ti abbiamo chiamato apposta, Mimmo. Intanto ha segnato Gibilterra, credo sia un evento storico. 1-1 in casa della Scozia, prego. Lo dico, guardate, che è bello, guarda, il calcio è di una bellezza unica. Cioè, lui gli hanno dato un centrocampo pazzesco. Perché la cosa che nessuno se ne è accorto, che ieri sera un certo Conte se voleva fare il Benitez. Sì. Se voi vedete Italia Napoli Juventus e vedete Bulgaria Italia, la stessa partita con gli stessi uomini, pensate che Bonucci si è messo a fare il Britos. Sì. Col piedino all'indietro. Barzagli era inguardabile perché non ha la condizione fisica. Sì. Chiellini ha fatto atto di presenza perché doveva fare il capitano. Io mi dovete dire Popov, chi lo conosceva, e dopodiché noi stiamo a dividere, no, a dire. Però Mimo, Popov ci aveva già fatto penare l'ultima volta che avevamo visto la Bulgaria. Aspetta che intanto saluto Pierluigi Pardo, che credo sia a Lisbona. Oh, ecco. Pier, come va? Sei a Lisbona per Portogallo Serbia, immagino. Sì. Esatto. Sì. No, è a Lisbona per Bacalao. Sì, o Bacalao. Bacalao. No, l'abbiamo mandato a Lisbona perché sta indagando sul rapporto edipico tra Conte e la Juventus. Dai, dimmi subito con chi stai. Io con Conte, Carlo con la Juventus. No, no, non sto con la Juventus. Tu? Non ho detto che sto con la Juventus, non è vero. Io semplicemente mi sono stufato di sentire ogni volta che gioca la nazionale, o ogni giorno quasi, uno che dice: ma forse vengo, forse non vengo, forse mi dimetto, forse sono scocciato, stufo, offeso, oppure vilipeso. Datemi i miei 4,5, mi rompete i coglioni, io vengo a allenare se ho voglia, ma non mi infastidite. Pier, è semplicemente questo. No, allora su Conte, sui malumori di Conte, mal di pancia di Conte, sono d'accordissimo. Credo che però in assoluto la vicenda degli ultimi giorni abbia un capitolo che è il capitolo più importante, che è quello di Marchisio, e lì secondo me insomma la Juve ha avuto un'uscita che non ha senso, prima di tutto perché Marchisio si è fatto male praticamente da solo all'inizio del riscaldamento, secondo perché poi comunque non può essere una colpa per un allenatore della nazionale far allenare i giocatori. No, sono sciocchezze queste, Pier. Queste sono stupidaggini, queste sono argomenti pretestuosi. Però è Velino che è stato sparso, che è arrivato. È vero che poi in conferenza stampa venerdì invece secondo me era stato perfetto, perché aveva mantenuto perfettamente questo atteggiamento, diciamo, super partes, che però è di buon senso. Ma anche Barzagli, ieri. Hai sentito? Anche Barzagli, appunto. Quindi secondo me quell'uscita lì è un'uscita francamente poco, è un'uscita diciamo emotiva, perché è chiaro che l'altro giorno, venerdì pomeriggio, quando sembrava che Marchisio si fosse fatto male in maniera molto pesante, è chiaro, evidente, è crollato un pezzo della stagione della Juve, è crollato un pezzo della stagione della Juve. Sarebbe stato pesante. Racconto anche che quel video che ieri è girato, praticamente la federazione l'ha dovuto tirar fuori perché qualcuno non si fidava nemmeno che Marchisio si fosse fatto male da solo corricchiando, altro che allenamento ad alta intensità. Su questo veramente merita, secondo me, grande rispetto, e fa abbastanza ridere e anche un po' orrore dal punto di vista poi secondo me dei rapporti, del senso della vita. Adesso non vorrei esagerare, ma insomma Conte è stata una bandiera della Juve, ha onorato questa maglia prima da calciatore e poi da allenatore con dei risultati incredibili, ha ottenuto cose pazzesche. Io ero fra quelli che il giorno della scelta di Allegri ero convinto che la Juve avrebbe fatto bene, sbagliavi nell'altra parte, quella che Conte era la scelta migliore per la nazionale, per cui sembrava c'erano questioni di opportunità. Non è che oggi Conte sia un nemico della Juve, no, Conte però è un cittadino italiano, rapporto edipico. Massimo Cecchini prima ha coniato questo termine, rapporto edipico, per non si sono lasciati bene, cosa la Juve non si sono lasciati bene al di là della, aspettate, mi fate parlare con Paola da Roma, altrimenti non si lascia bene nemmeno lei con noi, che è lì da una mezz'oretta che aspetta. Paola, buongiorno, eccoci a tutti. Qua, scusaci. Intanto no, Pierluigi, ti chiedono com'è la situazione tifosi a Lisbona, preparati la risposta, perché interessa. Paola, prego. Scusatemi, io volevo semplicemente esporre due piccoli pensieri, argomenti di riflessione. In questo momento in cui l'Europa del nord e del sud è divisa, soprattutto contro la Germania al sud, mi è piaciuto oggi sentire l'inno tedesco, poi l'inno italiano, Ferrari guidata da Vettel e poi per battere una Mercedes, il massimo. Abbiamo questo goduto abbastanza. Voglio dire, questo è non è l'applaudire, è la magia dello sport, se permette, la magia dello sport che sa unire, no? Cioè vedere Vettel che abbraccia poi tutti i tecnici. Molto bello, l'universalità. L'altra riflessione? L'altra riflessione invece è il brutto dello sport. Cioè io penso che qualsiasi persona conosca un minimo la teoria dell'allenamento sappia che allenarsi due volte al giorno per degli uomini giovani, sani e sportivi che nulla fanno altro durante la loro vita è il minimo, non è il massimo. E io penso che i giocatori di calcio non sia il troppo allenamento che fa male, ma il poco allenamento che fa male. Sì, comunque due volte al giorno per 5 giorni non si sono allenati in questa sosta per le nazionali. È una bugia. è una bugia ed è una delle bugie, Pier, che ha fatto arrabbiare Conte. Questo è uno dei retroscena, ah, con sì, questa voce che è girata. Di che stiamo parlando? Questa è una guerra diciamo di potere e di posizione fra nazionale e ovviamente i club, che c'è sempre, sì, è uno in particolare. Questo lo immaginiamo dall'inizio, no? Perché Conte chiaramente ha un carattere un po' diverso da quello di Prandelli, quindi è un po' più colorito nell'esprimere, nel lottare per i suoi diritti, ma anche Prandelli lottava per gli stage, è una dinamica che esiste. E poi c'è l'elemento ovviamente di come si sono lasciati Conte e la Juve, che non è stato il massimo, però io mi ricordo quello che avevo detto quei giorni lì e lo ribadisco, non è stato il massimo, d'accordo, non è stato neanche il minimo, nel senso che Conte poteva pure decidere di prendersi il suo stipendio anche per quest'anno, di cominciare la stagione e poi magari di lasciare a metà dell'opera. Lui ha lasciato subito, sicuramente se avesse fatto prima, 15 giorni prima sarebbe stato più apprezzabile, però l'ha fatto comunque subito, ha lasciato la Juve nella condizione in poche ore di trovarsi un altro allenatore e di poter cominciare la stagione quasi come se nulla fosse. Allegri praticamente è arrivato al secondo giorno della preparazione, quindi non è cambiato molto dal punto di vista pratico. Io ho considerato francamente da parte di Conte tutto questo molto onesto, molto corretto. Lui non aveva le motivazioni, non aveva la voglia, aveva qualche distapore per poter continuare in questa stagione e ha lasciato con una, quel momento, lasciando anche dei soldi, però non si sono lasciati evidentemente, chiarendo tutto. Aspetta che coinvolgo anche Tony Damascelli. Ciao Tony. Ciao a tutti. Uno che Conte il permaloso lo conosce. Il permaloso è la definizione che gli amici da casa stanno dando, scrivendo al 349-238-6666. Tony, tu che lo conosci? Io sono un permaloso doc. Sì, più di Conte. Sì, molto, ma difatti andiamo molto d'accordo, Antonio. Ecco, ma ti sembra che abbia la faccia di quello che vuole scappare dalla nazionale? No, scappare no. Non è, scappare nel non senso non è un vigliacco. Ritenere non, un vigliacco più, non più altri, percorribile la strada. Come altri illustri personaggi di questo mondo. No, Antonio pensava di andare incontro a un altro tipo di avventura. Per cui lui è andato via dalla Juventus rimproverandosi di non poter continuare, rimproverando la Juventus di non poter continuare, e io sono stato tra quelli che l'hanno spinto ad accettare l'offerta piuttosto che rimanere in stand by. Cioè hai ripensato, ti sei un po' pentito? No, pentito no, perché io speravo che il suo messaggio, chiamiamolo così per usare un sostantivo inflazionato, venisse recepito dai suoi colleghi e dai dirigenti, quelli continuano a non capire che un movimento parte dalla nazionale e si irradia poi a livello di club, se vogliono capirlo. Se non vogliono capirlo, la nazionale fa il suo lavoro, la sua strada, e i club ne fanno un'altra. Ma chi conosce il calcio sa benissimo che questo discorso sta facendo Antonio oggi, e non c'entra solo gli stage, così spigoloso, così difficile, così aspro, lo fece anche Enzo Bearzot. Enzo era uno in lotta con tutti, ci fu un periodo che portò al suo silenzio stampa, lui abbandonò in Spagna, mi ricordo, ero io presente, dopo una domanda di un collega del Corriere della Sera, abbandonò la conferenza stampa. Sì, non è il primo mondiali. Conte che prende e se ne va, questo stai dicendo. Ha fatto un po' scalpore quella scena, ma non è il primo. No, non è il primo. Non sarà neanche l'ultimo. Abbiamo gli esempi di José Mourinho, solo che se lo fa Mourinho ha un'illustrazione diversa, perché fa parte del personaggio. Conte in una situazione di rigetto, questo sicuro, questo ve lo posso preannunciare, in una situazione di rigetto a un mondo che non sente più suo, che non è solo quello della federazione, che non è soltanto quello della federazione, ma è quello del calcio italiano. E l'uscita infelice di Elkan, che dovrebbe contare fino a 3 se ce la facesse, prima di parlare e soprattutto informarsi con i propri medici, lo ha ulteriormente stranito. Non aveva dubbi sull'ambiente, sul giro del fumo di Torino, della Juventus, soprattutto di alcune parti della Juventus, e se ne è avuta conferma in quelle sì, ore. C'è stato un cortocircuito che ha messo tutto a nudo. Pier, anche tu hai l'impressione che stiamo un po' perdendo. Non sapevo che c'è Luigi Pardo da Lisbona. L'avevo intuita didascalie. No, l'abbiamo mandato per sapere com'è la situazione tifosi a Lisbona. Aspetta, teniamo la suspense. Teniamo la suspense, Pier, ce lo dirai dopo. No, adesso invece mi interessa sapere se anche tu hai l'impressione che stiamo un po' perdendo quest'occasione. Cioè, comunque Conte era l'uomo che doveva darci la sensazione di dire la nazionale è importante, rimettiamola al centro del progetto. Ma tutta la vita, guarda, l'altro giorno il capo di imputazione che girava su internet e che in qualche modo è stato accentuato dalle parole di Elkan, e a un certo punto è stata una domanda di un collega della RAI sulla quale lui si è chiesto di precisare, è il fatto che con Conte i giocatori lavorino troppo. Cioè, una cosa che dovrebbe essere positiva e dovrebbe essere uno dei marchi di fabbrica di questo allenatore, che ha ottenuto dei grandi risultati nella Juve grazie all'intensità che è riuscita a produrre, sta diventando un boomerang. Sì, è diventata una connotazione negativa. È come se un giornalista gli dico no, tu scrivi troppo bene, un conduttore televisivo no, tu però fai ascolti, è meglio se non li fai. Ecco, cioè sta diventando il paradosso. È chiaro che Conte fa in questo momento gli interessi della nazionale, gli interessi della nazionale vanno in conflitto in certi momenti con gli interessi dei club, perché è evidente per esempio che martedì di un amichevole contro l'Inghilterra ai tifosi della Juve in questo momento, che hanno mille obiettivi ovviamente ancora aperti, interessa più o meno della zero. Roma, del Napoli, della Lazio, cioè, adesso pensate, guarda, se si fa male un altro, se si fa male un giocatore di una delle squadre che sono in lotta per la Champions League, sì, che vogliamo però fare? Abbiamo però dimostrato che si fa male anche in Svizzera, si fa male anche in Svizzera, non solo con la nazionale italiana. Allora, noi siamo già un po' fuori, tu Pier stai lì, io in 30 secondi volevo chiedere a Tony cosa si aspetta martedì sera da Torino e dallo stadium con Conte. Cosa ti aspetti, tu che conosci l'ambiente? Sì, mi aspetto gli applausi, mi aspetto i fischi dei soliti idioti, mi aspetto un Conte col broncio perché è così, mi aspetto una partita buona perché con l'Inghilterra ci si diverte sempre anche se mezza squadra è fuori. E per quanto riguarda gli oriundi, ho letto ancora oggi su Corriere dello Sport il titolo un brasiliano salva l'Italia. Conte, salva l'Italia. Vorrei sapere se il Corriere dello Sport fa lo stesso titolo per Diego Costa con la Spagna. Chiederemo a Paolo De Paola. Grazie Tony. Paolo è un amico, certo. perché i casi c'è anche chi ha titolato metà Italia con la faccia di Eder, e io credo fosse un doppio senso quel metà Italia, cioè metà prestazione ma metà Italia, perché no, ignoranza che riguarda in noi giornalisti, una parte di noi giornalisti, riguarda anche gli allenatori, perché Mancini, che dice che tutti i giocatori della Germania campione del mondo sono nati in Germania, si dimentica che un suo dipendente Lukas Podolski è nato in Polonia oltre che lo Zappos, quindi informi anche sull'anagrafe dei sono circa dipendenti. 250 presenze della nazionale tedesca che vengono dalla vicina Polonia. Grazie Tony, soprattutto lui. Ciao Tony. Pier stai lì, 800 24 00 24. Gibilterra sta perdendo però, ha segnato ma sta perdendo 2-1 in Scozia, 0-0 ancora la Germania, in Georgia sta facendo fatica come noi in Bulgaria. La lesione al legamento di Marchisio c'è, perché se uno l'ha vista c'è, a meno che non fanno l'allegro chirurgo c'è. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. E intanto Gibilterra, che ha fatto il primo gol storico di queste qualificazioni, però sta perdendo 3-1 in Scozia. Due rigori della Scozia, e quindi io vorrei anche fare un po' la moviola di Scozia e Gibilterra. Invece, carissimo Pier da Lisbona, in attesa che ci dici com'è la situazione del pubblico a Lisbona, perché gli amici da casa sono caldi su questo tema. Noi ci eravamo lasciati. Se passa Ivan Bogdanovic. Caldi da venerdì, le grandi inchieste di tutti i convocati. Su cosa ci eravamo lasciati, Carlo? Venerdì? Sì. Ronaldo, Giuliano, cose fresche, cose recenti. Abbiamo approfondito. Ti amo campionato, perché non sei falsato, non sei falsato, a me mi è risembrato falsato, ma han detto che non sei falsato, ha detto Umberto Agnelli, che sono state solo delle spiste. Ronaldo, sposta la palla. Questo è l'intervento. È il classico intervento dettato dall'eccessiva foga, involontario. Però certo, siccome c'è il danno procurato, su questo non ci sono dubbi, c'è contatto, è un contatto fisico ed è calcio di rigore. Due o tre sviste arbitrali. Quel rigore c'era o no? 17 anni dopo. Io, è in prescrizione. Io non lo so. Perché lei l'avrebbe fischiato. Ma io non sono arbitro, quindi il problema non me lo pongo neppure. Io dico soltanto c'è un arbitro che praticamente ha pensato di non dare rigore, che poteva essere e non essere. Ma questo è stato fatto nel segno dell'amore. Io non vado certo a pensare che ci siano dietro delle cose sporche. No, no, no, no, no, no. Se lei fosse stato il direttore generale dell'Inter, si sarebbe un po' arrabbiato a Torino, lo scontro, Giuliano. Io, questo è un altro discorso, perché noi quando vediamo delle cose che praticamente riteniamo da tifosi della squadra dove praticamente lavoriamo, vediamo sempre il meglio per noi e il peggio per loro. Quindi probabilmente, se l'avrebbe chiesto, probabilmente mi sarei arrabbiato pure io. Ti amo campionato, perché non sei falsato, non sei falsato. Quando parlano di questo rigore dovrebbero ricordarsi che l'Inter per regolamento doveva essere retrocesso all'ultimo posto della classifica e praticamente quel campionato lì non lo doveva neppure fare. E oggi perché Carraro parla così? Beh, io non lo so, evidentemente è un po' così, l'età l'ha portato a fare dei riscontri tardivi. Con questo è tutto chiaro, noi siamo dei segugi, ve l'avevamo promesso. Carraro praticamente è un ricoglionito. E quindi questo è intanto oggi, no? Tutta la Scozia ha fatto il quarto gol, sospetto di fuorigioco. Anche io la Germania ha segnato la Germania con Royce alla fine del primo tempo. Piera, sei più tranquillo adesso, no? Sì, molto più tranquillo, molto più sereno. Mi appassiona molto. Distanza di anni, la Moviola Vintage veramente mi fa impazzire. Giampiero dalla provincia di Latina. Giampiero. Eccomi, ciao. Eccoci, a tutti. Prego. No, volevo fare una considerazione per quanto riguarda gli europei. Vedo anche molto bene la Polonia. Sì. Volevo sapere cosa ne pensavate in merito. E poi dei giovani della nostra nazionale italiana, tipo Cataldi, Romagnoli, questi under 21 che stanno salendo secondo me alla grandissima, che possono essere utili anche per l'europeo. Guarda, sulla Polonia io dico che no. Non è la prima volta che fa delle grandi qualificazioni, poi si perde un po' via, Pier? Sì, sì, beh, ha perso anche l'occasione in casa, no? Nell'europeo con l'Ucraina, però insomma sicuramente c'è talento e crescita complessiva. E poi appunto tornando al discorso prima, la Polonia negli ultimi anni ha perso dei giocatori, non adesso, ma mi riferisco ovviamente a Podolski e a Klose, che potevano essere giocatori che avrebbero migliorato il tasso tecnico della squadra, e mi riferisco ovviamente soprattutto a 10 anni fa. E adesso è una realtà emergente, sicuramente non è la sola, per dirci che l'Irlanda in questo momento sta facendo cose eccezionali. Poi vero salto di qualità, come sottolineavi tu, è quando arrivano le grandi sfide, i grandi appuntamenti, perché lì c'è bisogno, oltre che di essere cresciuti come movimento calcistico, anche proprio di un'abitudine alle grandi partite che magari questi giocatori ancora non hanno in massima parte. Sì, vale anche per i ragazzini, non solo per le nazionali. Ah, certo, l'amico ha fatto dei nomi, e poi vale, parlavamo prima di Verratti, che ieri ha un po' bucato la prova da vice Pirlo. Romagnoli, io credo che se fosse rimasta la Roma, ovviamente la Roma all'inizio dell'anno non poteva sapere che Castan avrebbe avuto quel problema, e quindi insomma è l'ultimo di, e forse probabilmente adesso non lo ricordo, ma credo che sicuramente sia stato mandato via alla Samp prima di decidere ufficialmente la partenza di Benatia, che è arrivato in tutti i ore di mercato. Quindi Romagnoli era veramente c'è stata un chiuso. Po' di miopia di mercato, forse si è perso un po' di vista al quadro generale. Un'occasione da 32 milioni di euro che alla fine è stata colta, insomma adesso è facile però voglio dirti, secondo me Romagnoli quest'anno, se fosse rimasto alla Roma, avrebbe giocato tante partite e avrebbe migliorato nettamente il reparto difensivo, e non a caso mi risulta che la Roma stia facendo di tutto per riportarlo subito a casa. La Samp ovviamente non è d'accordo, ma insomma, comunque il cartellino della Roma. Cataldi stesso discorso, Cataldi sta crescendo molto bene, è in una squadra che va alla grande, e quindi in qualche modo questo lo favorisce, però lui ci sta mettendo veramente il suo, no? Ma io non so, guarda, io sai che non sopporto il pan pessimismo, no? Cioè la cultura del tutto sbagliato e tutto da rifare. Mi sembra che il calcio italiano abbia sicuramente una crisi di talento, soprattutto in avanti in questo momento, però poi insomma i giocatori interessanti ci sono, non siamo nella fase migliore degli ultimi 20 anni dal punto di vista generazionale, ma non siamo neanche diventati un paese che non può più. Però ieri era sconfortante paragonare la nazionale titolare dell'Italia e la panchina del Belgio, come faceva prima Anna Billò. Luciano dalla provincia di Vercelli. Luciano. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno e complimenti. Grazie. Direi che io sono tifoso juventino con due poste allo stadium e quindi ho vissuto tutti e tre gli anni di Conte. Ritengo che al di là dell'essere fermo all'uso sia faccia parte di quella categoria di allenatori che diventano presuntuosi, cioè che credono a un certo punto che il suo modulo di gioco superi ogni giocatore, vedasi le formazioni fatte in Champions in Norvegia o in Danimarca schierando Peluso e Geceglia credendo che il suo modo di gioco sarebbe stato superiore, avrebbe comunque vinto le partite, cosa che fortunatamente Mourinho nell'Inter non faceva e fa anche questo meno Allegri oggi. Sì, però Luciano, io per carità adesso Conte è il male assoluto per i tifosi della Juve, io lo posso anche capire, però ricordiamoci che Conte è anche quello che è arrivato a Torino che giocava al 4-2-4, no? Pier, correggimi. Ma io poi ha fatto due conti e ha visto che serviva al 3-5-2. Io solo una cosa per mettere a dire, Conte per me non è cambiato. È quello di prima, è solo che chiaramente i tifosi della Juve che ce l'hanno avuto per tanti anni, prima da giocatore, punto di riferimento, simbolo e poi da allenatore, adesso per la prima volta nella loro vita lo hanno da rivale, rivale per modo di dire, perché non è che allena il Milan, l'Inter o la Roma, allena la nazionale. È il contrasto edipico. E in questo momento, anche un po' artificiosamente, si è creata questa polemica. A me pensare, io sono d'accordo con Tony, penso che qualcuno che lo fischierà ci sarà martedì, mi fa orrore questa cosa, te lo dico molto sinceramente. Sì, c'è un amico che scrive io lo fischierò e non per questo voglio essere definito un idiota, per carità, no, idiota era anche un artificio giornalistico per spiegare. Mi viene da dire, forse sarò troppo romantico io, ma tutto meno che romantico, mi sembra assurdo che i tifosi della Juve possano fischiare Conte, che comunque alla fine è uno che se n'è andato via perché non aveva più le motivazioni, aveva qualche contratto sul futuro. Ha onorato la Juve, prima da calciatore in maniera eccezionale, poi da allenatore facendola svoltare in maniera mostruosa, e così come ero convinto che Allegri avrebbe fatto bene, e oggi abbiamo le prove, quindi non è un dramma, però non è che adesso, siccome Allegri ha fatto bene, Conte non abbia fatto niente. Conte ha svoltato la Juve, Conte l'ha rivoltata come un calzino e ha costruito una squadra che oggi è in corsa per tutto, e ha vinto tanto, poi qualche volta sarà stato presuntuoso, avrà fatto degli errori, sicuramente poteva giocarsi meglio l'Europa League dell'anno scorso, benissimo, però insomma sarebbe come se sarebbe come se fa qualche anno i tifosi della Roma si schiacciano Totti, magari va allenare la nazionale e Romagnoli sta male, magari Totti va a fare il CT della nazionale e Romagnoli che avrà 35 anni è una polemica totalmente pretestuosa, però che qualcuno ha acceso. Mi devo fermare perché c'è il traffico. Pier, ti lasciamo al bacalau. Sì, però, però mi devi dire com'è la situazione del pubblico, perché sennò gli amici da casa impazziscono. Ti do 10 secondi. Che ne sai? Un posto dove in questo momento forse la cosa che si muove di più è un gatto. Possiamo dire che sei in vacanza. Sono in vacanza, però vado. La cosa che si muove di più è un gatto. A Simona che stasera servisce. L'accordo è che al 60esimo usciamo, però sì, insomma no, che c'è il ristorante, più o meno come Boniperti, che c'è il ristorante. No, Boniperti usciva alla fine del primo tempo, lo so, tempo, no? Ho detto più o meno come Boniperti. Ciao Pier, ciao, sentiamo, sentiamo domani, Sì, sentiamo domani. A domani. Grazie, ciao Pier, 2-0 della Germania, traffico. Ebbene sì, sono Luciano Moggi, sono perfettamente prescritto. Chi è? Perché io sono io e voi di tutti i convocati weekend non siete un cazzo. Tutti convocati. Questa meravigliosa domenica delle rosse non c'è solo la Ferrari, di cui abbiamo ampiamente parlato in apertura, c'è anche la Ducati che sogna, e sogna con un ragazzo che il 29 maggio scorso, Dovizioso, a tutti i convocati parlava così. Il nostro progetto è a lungo termine, come ho già spiegato, dobbiamo avere pazienza, secondo me. Con i cambiamenti, i piccoli cambiamenti che abbiamo fatto quest'inverno abbiamo già fatto un bel salto in avanti. Il grosso salto arriverà il prossimo anno perché ci sarà un progetto nuovo. Al momento non ce la possiamo giocare, però ne riparliamo il prossimo anno. Il prossimo anno è arrivato, detto fatto, Dovizioso, ore 20, parte in pole position. Saluto Roberto Ungaro, direttore di Riders. Ciao Roby. Ciao a tutti. Ciao Roberto. Ciao. Detto fatto, poi vediamo, insomma, perché tra il sabato delle prove e la domenica del Gran Premio alle volte passa un oceano. Esatto, c'è stato il warm up dove Marquez, tanto per cambiare, è risalito, però Dovizioso è rimasto lì costante, anche Valentino ha migliorato, che non sentiva la gomma dietro. La notizia, l'avete detta, è questa, la rossa è rinata, lo dicevamo negli anni scorsi, tante volte l'abbiamo detto, la moto era grossa, era nata con un motore portante, attorno gli avevano fatto un telaio, ma comunque era grossa e non curvava. L'hanno rifatta da un foglio bianco, chi l'ha vista dal vicino dice che è spaventosa perché è piccolissima, e adesso i piloti, come chiamano loro, hanno un ferro tra le gambe con cui riescono a giocare e divertirsi. È vero che ci sono i regolamenti molto a favore, perché lei corre in una categoria diversa, ma sono diminuiti questi favoreggiamenti da regolamento. È una ciambella nata col buco, e lo dimostra non solo il risultato, l'acuto di Dovizioso, ma Iannone quarto, e ancor di più Hernandez, che è quinto, sì, in seconda fila. Sì. È questa la notizia, quindi la moto è sana. Sì, anche se è vero, ho letto da qualche parte che non ha compiuto nemmeno una simulazione intera di un Gran Premio, quindi attenzione ragazzi, alle 20, esatto, tutti lì a tifare Valentino Rossi, Dovizioso, la Rossa, tutto quello che volete, però con, insomma, non per essere delusi dopo. Però la Ducati, io e Roberto abbiamo parlato diverse volte, la Ducati già l'anno scorso aveva fatto grandi progressi e un mesetto fa, ti ricordi Roberto, ero qui a parlarne, ma Iannone, ma Dovizioso, ma vediamo come va, io dico che c'è molto di Dall'Igna in questa struttura. Ha portato il suo metodo, ha rivoluzionato tutto, ha sperimentato tutto quello che c'era da sperimentare, anche dei suoi uomini ha portati. E non dimentichiamoci cosa è stata capace di fare Aprilia in passato. L'Aprilia di oggi non è l'Aprilia di sempre. L'operazione Dall'Igna ha portato uno stravolgimento pian piano, per gradi, passo dopo passo, perché gli ingegneri li conoscete, nulla si improvvisa. È vero, non hanno fatto simulazioni, però la moto è nata sana, questo è molto importante, bisogna solo sperare che non sia un fuoco di paglia, quindi i primi 7-8 giri davanti e poi tirano un po' indietro. Ma la moto è un'altra moto adesso e si è dovuto aspettare questo progetto, ha provato pochissimo, è vero, però almeno si farà vedere, si avvicinò al podio e una vittoria non è più una notizia che fa così clamore in questa stagione. Cosa dobbiamo aspettarci invece da Valentino? Ieri deludente, diciamolo, deludente, perché le premesse erano altre, deludente lui e deludente anche Lorenzo. In generale la Yamaha. Warm up ci raccontavi che l'ha visto risalire. Sì, Valentino allora non aveva feeling con la gomma posteriore e quindi niente da fare, non se la sentiva, come anche Lorenzo, infatti Lorenzo parte di lui rispetto alla sua solita prestazione, sesto, chiude la seconda fila. Valentino c'è, non si è allenato come non mai, è più in forma adesso del passato, è chiaro, c'è l'età, è recupero, tutto quanto, però può essere lì anche lui a giocare, deve migliorare il suo risultato dell'anno scorso, ha chiuso secondo, quindi, e le Honda sono a postissimo, quindi Pedroso anche lui con questo mezzo è un po' rinato, lo protagonista secondo me. Non ci sono più i fantastici quattro, ovvero Yamaha e Honda, ma si sono aggiunti altri due. Sì, sono i fantastici sei, l'ha detto anche Valentino ieri. Sì. E Iannone, che è un cavallo pazzo, esattamente il contrario di Dovizioso, però anche lui può arrivare al risultato. Speriamo sia un bel mondiale, un po' più divertente di quello dell'anno scorso, diciamo la verità. Da questa sera, ore 20, cominciamo a testarlo. Grazie Roberto Ungaro. Ciao Roby, a presto. Ciao Carlo, ciao, grazie. Grazie Roberto Ungaro, vediamo se riusciamo a fare Francesco da Roma. Francesco. Sì, salve. Eccoci. Intanto fa piacere ascoltare tutte queste vedove di Conte che rimpiangono. È un po' sputare sul piatto su cui si è mangiato anche bene. Io semplicemente avrei una soluzione facile per tutti quanti. Credo che Conte abbia dimostrato tanto alla Juve, e detto da un romanista non è una cosa facile da digerire. La soluzione è molto semplice: il nazionale non riesce a sviluppare il lavoro che lui fa abitualmente. Io ringrazierei Rudy Garcia, rimetterei lui e tutto il suo staff al centro di Bordeaux, di Parigi, di Lione, dove vuole andare. E lo accoglierei a braccia aperte, penso che gli americani abbiano la possibilità di fare un ragionamento simile, e se vuole prendersi una bella rivincita verso chi lo ha pagato, sì, e a questo sarebbe punto meraviglioso piacere, Conte alla Roma contro la Juventus, non male come scenario, Francesco. Credo in realtà che siano altri i lidi cui potrebbe arrivare Antonio Conte, se dove? Oggi è il giorno degli inni. Chi è? Fratelli d'Italia, l'Italia si è detta. Oh, presidente, col casco di Vettel si è cinta la testa. Sì, che tra l'altro è a Tunisi, no? Perché c'è la manifestazione oggi. Esattamente, ciao Ciccio, ciao a tutti, sì. Ciao a Nanni. Oh, bello bene? Contento, si è svegliato anche lei. Ha brindato col. Ho bevuto lo champagne alle 10:56. Con lo spumante, con lo spumante. Devo dire, una rossa ha vinto. Sì. La Ducati può vincere e fare il bis. L'Italia, passo dopo passo, al 100%, è sempre più rossa. Sì. Sto scherzando, la battuta. Sì, no, ci mancherebbe. Non voglio. Non è neanche merito suo, presidente. Non è neanche merito suo. Vabbè, quest'oggi non voglio parlare di GeoPax e Information Communication Technology. No, ma anche perché non c'entra niente. Non c'entra. No, non c'entra. Come ho detto a un giornalista inglese qua a Tunisi, mi sembra, del Quotidian Fact, e gli ho detto: Italia Commercial Situation, especially Italian Motors, is very good. Motors, Io non ho capito niente. No, presidente. No, però parliamo della. Io non ho capito nulla. Inglese, però parliamo della Ferrari. Sì. Intendevo dire, Capuano, ciao Nanni. Intendevo dire che grazie alla produzione di motori in Italia siamo tornati a vincere al 100%, è naturale. Sì, in realtà scappano tutti. Pare, no, la Fiat che è andata in Olanda, in Inghilterra. Ma anche, la Ferrari che ci aveva pensato, no? Ma queste sono bacianate, cialtronate. Sì. Il Made in Italy è vincente. Ci manca soltanto alla viola vinca il tricolore. Ma che e non ci ferma più. Speriamo che resti almeno la Ferrari. Speriamo. Una battuta. Arrivederci, presidente. Arrivederci, cantiamo insieme. Ciao, il nazionale. No, anche no, grazie. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata. Paolo Corleone, Gianmarco Ferronato in regia. Carlo Genta qui con me. Noi ci risentiamo non domenica perché Pasqua. Quindi fra due settimane la domenica, domani dopo il GR delle 14 tutti convocati, anche Leo Turrini e anche la moviola di Scozia e Gibilterra, perché ce ne sono veramente da raccontare, e anche quella di Catanzaro Juventus. Ciao a tutti. Ciao. Unipol Sai Assicurazioni, sicurezza garantita e servizio personalizzato. Vi ha presentato convocati.